fori o quattro, hai detto? Quattro fori? Sì. Ci mettono questi tubi, ci mettono, come i tubi stesso deve essere in buca, no? Sì. Qua sto sentendo folate di vento e sento degli spifferi dalla finestra, perché c'è il cavo che passa, no? Ci deve essere anche vento. Vedo il cavo che c'è fuori, c'è una corda appesa e vedo che si muove. Sì, c'è più vento oggi, mentre gli altri giorni, ieri, l'altro ieri, era proprio bella senza vento, almeno Sassari. Oggi è un po' così la giornata, non è tanto per la quale. L'altro giorno era bello, era quando sono sceso, c'era questo sole, sono sceso con mia moglie pure. Certo, se avessi la piscina, almeno uscirei più volentieri a farmi un giro, ma così da solo non fa. Infatti tu dovresti uscire un po' di più. Naturalmente bisogna trovare la persona che capisce che io c'ho una situazione in casa, che devo essere presente qua, devo essere abbastanza presente, non che posso starmene 12 ore fuori casa, capito? Non fa così. Io ho perso una fidanzata per quel motivo lì. Quando i genitori stavano male, no? Che praticamente non ci stavano tanto con la testa. Quello era babbo, mamma già ci stava con la testa, solo che non poteva camminare perché l'aveva presa alle gambe questo diabete, era cieca e chi più ne ha più ne mette. E invece tuo padre cosa aveva? Ma tipo Alzheimer? No, a babbo gli hanno bruciato il cervello loro perché non gli hanno fatto la trasfusione immediata, come ha detto il mio medico di famiglia, perché è andato per un'anemia lì e ne è uscito demente proprio. C'era la dottoressa D'Onofrio, quella che comandava la Nero, ha detto in tanti anni di carriera non ho mai visto un caso simile. Quando l'hanno dimesso a babbo, venivano l'equipe della Nero, veniva in campagna a visitare mio padre. Sì, cacchio, ma non c'era il tanto da fare causa, no? Era a causa. Dopo di quello gli è venuta una febbriciatola lì, l'ho portato all'ospedale e se n'è morto. Chissà cosa cavolo è successo. Perché lui non mangiava nulla, glielo dovevi dare tu, non beveva se non glielo davi tu. Io per farlo bere gli facevo l'aranciata, no? E gli mettevo un bel di zucchero proprio per farlo, sennò ovvia. Era diventato uno stecchino, uno scheletro era diventato. A me e babbo pesava 100 kg quando stava bene. Chissà che cavolo è. Mi ricordo zia Giovanna, che era vecchia e lo stesso, era venuta questa febbriciatola pochi giorni all'ospedale, poi puff. Nonna lo stesso, c'era una febbriciatola, non era una cosa tipo, alla fine tipo, aspetta, c'è un termine che non mi viene, vabbè dai, non mi viene, una cosa così generica, un po' c'è invecchiamento di tutti gli organi, come fosse una piccola reazione autoimmune, e poi anche lì è andata in cielo. Babbo è morto giovane, 72 anni ci aveva quando è morto. Gridi che era anziano, 72 ne aveva. 72, infatti no, non sono molti. Era venuta questa anemia, si è andato ridendo e scherzando con i dottori lì. Cazzo, io pensavo che era sedato e invece era in coma, era. Quando se ne è citato, lo debito bruciato, non sapeva neanche dove stava di casa, poverino. Era ridotto proprio, se ti sto dicendo, come era arrivato a essere scheletrico, no? È venuto il fratello a fargli la barba, che era barbiere di Antonio, che quello è morto pure lui adesso. il più piccolo. Beh, lo sai che si è sentito male e non gli ha potuto fare la barba. Solo a vedere mio padre in quelle condizioni. Sì, cavolo, ma loro andavano d'accordo, presumo. Sì, sì, però si è sentito male a vederlo in quelle condizioni, perché babbo, cazzo, quando era sano pesava 100 kg, pesava. Ti sono presente che, guarda, non sembra vero. Ehi, poi nell'ospedale ho visto anche mamma, che qua bene o male, cioè, beh, mamma già ha ragione, tutto. L'ospedale sembrava una mancante. Non so perché, sarà che lì sei isolato dai familiari, non c'è televisione, non puoi fare quello che vuoi, perché a mamma piace fare quello che vuole, capito, in casa sua, e vorrei vedere, però lì non è così, lì devi sottostare agli orari loro, a tutte le cose loro, che magari ti svegliano la notte per darti terapie, insomma, dai, mi sembrava proprio una fuori di testa, sembrava. Infatti ho detto, ma a casa non è così, cosa le avete dato? A casa non è così, qua sembra la psichiatria, e invece a casa è normale, capito? Ti sto dicendo, anch'io quando ero ricoverato non poteva venire mia moglie, non poteva entrare nessuno per il Covid, no, non avevi televisione, non avevi niente. Sono arrivato a bisticciare con un'infermiera, ma ne ho detto di tutti i colori perché mi ha rotto proprio le scatole. A chi vanno i ragazzi a ripilare? Tanto il dolore non ce l'hanno loro. Mi hanno lasciato a me una settimana senza mangiare nulla, a digiuno. Quando ho avuto la pancreatite mia, lo sai. Ma vuol dire che dovevi un po' spurgare, o non lo so, cioè non potevi mangiare. Ma almeno la flebo te la facevano, sì. Non è che morivi di fame di sette. Ho detto che, guarda, trattato come blu, non lo so. Per l'ospedale già lo so che non potevo mangiare, io capisco che non potevo mangiare, infatti quando ho mangiato la prima volta brudini, che cose così di zeribu di magna e boom, poi mi avevano scoperto anche che c'avevo i calcoli della cistifellea, mi avevano scoperto tutto dalla risonanza e dall'attacco, hanno scoperto, mi avevano trovato il diabete, poi infatti mi invasiano l'insulina prima di mangiare, mi misuravano la glicemia e poi mi facevano l'insulina e poi mangiavo. Brodino di mammo ti facevano mangiare. Allora, non potevo mangiare roba assolutamente, perché guarda che sono vivo per miracolo, non sai che ci metti la pelle con la pancreatite. Altro che, lo so, qua è venuta una signora che abitava qui, è arrivata molto rapidamente e molto rapidamente se l'è portata via. Ti sto dicendo che sembrava uno scheletro, sembravo. Cazzo, da 70, quasi 80 kg che pesavo, cazzo, sono arrivato a 52 kg, dimmi tu. Guarda, mi ricordo che allora la pancreatite era venuta a una ragazza che conoscevo, era una ragazza dei paesi che studiava all'università qua a Sassari, no? Ed era, vabbè, veloce, biondina, vabbè, tinta, però era molto cordiale, molto... Una volta mi aveva visto nel garage in via Gavinovatta, mi aveva detto ciao Marco eccetera eccetera, ascolta, dice, guarda, io ho la casa qua giù, dice, un giorno vieni a trovarmi, ti faccio vedere la casa eccetera eccetera, insomma, io come un minchione, tu già vengo, insomma, sembrava un po' interessata a me, era molto molto molto cordiale, sì, molto amichevole. Io come minchione non sono mai andato, un po' di interesse c'era da parte sua secondo me, io sempre minchione non sono andato, capito? Magari ci usciva qualcosa, magari mi fidanzavo pure, cosa ne so, solo che questa era, sai di dove? Di un paese segreto, di dove? Non sapevo, manco sulla cartina dov'era, era di Semestene. E questa ragazza ha avuto la pancreatite, ha rischiato anche grosso, ha rischiato. Poi per fortuna è riuscita a rimettersi in salute, dai. Poverini, già lo so, a me mi succede, chissà poi da cosa avviene. A me comunque mia zia mi ha detto, quando sono uscito dall'ospedale, fatti operare subito la cistifellea, perché se ti viene un altro attacco non ci rimani. Deve essere, dipende da quello che viene. Sì, sì, è vero. I calcoli alla cistifellea possono, basta che si infiammi quella e parte anche il pancreas. Capito? Per quello è più delicata dei calcoli renali, è per quello che va fatta, bisogna operarsi. Se si è a rischio di infezioni o di cose, bisogna operarsi. In tempo, naturalmente, prima che succedano le infezioni, e se non parte pure il pancreas, se parte quello addio mi. Sì, infatti, a me il diabete non me l'hanno trovato da quello, ma quando mi è venuta la pancreatite acuta a me, cazzo, a giù mai gribu. Io. Insomma, vabbè. E poi questa, vabbè, si sarà, con gli studi sarà diplomata, sarà laureata, eccetera, poi non l'ho più vista. Però insomma, uno sempre, sì sì, già vengo, sì sì. Siamo io lì, sempre timido, oppure c'avevo altre cose per la testa, non stavo pensando a lei, però chissà. Chissà quante me ne sono perse le occasioni. Mi lasciate persa, se poi questa viveva da sola, tranquillo, che ci davi, che ci davi, che ci davi. Invece te, facendo così, ogni lasciata è persa, dice quello. Ma magari anche che fosse con qualche collega o amica, no, in affitto, basta che quelle uscissero, le amiche, non è quello il problema. Allora, forse era il periodo che io ancora c'avevo la casa libera, forse. È probabile, perché mamma ha lavorato 10 anni in Gallura, no? Andava a pigliare la casa in Gallura per insegnare, e io praticamente vivevo solo, no? E qui quindi potevo portare di tutto e di più e fare quello che mi pareva. Figurati, anche se c'erano le colleghe te la portavi a casa tua, cazzo, e facevi quello che volevi. E magari anche lì voleva quello, in quanto era di Furi, e magari non voleva rompimento di scatole di altra gente, se ne ha cercato uno e magari te l'ha fatto capire in poche parole. Sai cos'è, però io so già perché non l'ho cercata, perché questi dei paesi ci hanno in testa il matrimonio. A me dal matrimonio non mi interessa niente, sono tutte così questi dei paesi. Questa è di Semestane, mi pare che sia provincia di Cagliari o giù di lì, dovrei ricontrollare. E beh, come una volta che c'era una tipa a scuola, quando andavo a scuola, una tipa di Osilo, che era una bellissima ragazza, per non dire un tronco di canna anche, però me ne accorgevo che si facevano i calcoli, che tu sei, c'è la casa tua, vivi da solo. Una aveva detto tipo, non è che posso portare qualcosa, vengo a stare da te a casa di mamma, così l'avrebbe sbranata mamma, no. Le temo quelle dei paesi, capito? Sono di quelle che poi magari stai trombando, si incrociano le gambe dietro di te, dietro il sedere, ti tengono stretto, capito? E non puoi fare la retromarcia nemmeno. Scemo sei stato e non ne hai approfittato, sono quelle che ci stanno di più, quelle dei paesi. Lo so, però poi se fai danno, quelle già c'hanno il matrimonio in testa, se fai danno magari vanno a dire, mi sposi o dico che mi hai violentato. è lì che sei obbligato. Vai, che tu te la dovevi solo scopare, non te la dovevi sposare, te la dovevi solo scopare e basta. Capito? Non lo so, guarda che certo lo fanno, dicono, se non hanno fibra morale dicono o mi sposi o dico che mi è violentato, capito? Si fanno il piantino in tribunale, ovviamente il giudice cosa, si bevono tutto e vanno in galera e mi fanno anche l'allaccio poi. Oh my God, Giunto, che come avrebbe parlato di matrimonio poco a poco gli avrei tasco bella mia, non sto pensando a quello io, che ho altre cose per la testa. Se ti va bene così e se no, ciao e grazie, grazie e ciao e vai. Così difficile la situazione, mamma mia. Comunque è vero, certe volte quelle dei paesi sono più generose, diciamo, a dir poco. Specialmente da quelle parti là, mi diusilo, mamma mia. E mi ricordo proprio in quell'occasione, questa la vedevo un po' troppo interessata, me ne ero anche fuggito da scuola, cioè, siccome tanto non stavo combinando niente, mi ero anche ritirato da quella scuola. E poi il bello che non c'erano, a malapena c'erano i telefonini, all'epoca, e quindi non avevo la scusa, al limite vabbè sull'elenco già mi poteva trovare, perché il telefono fisso l'abbiamo avuto fino a, no, l'abbiamo avuto, ce l'abbiamo tuttora il telefono fisso, capito? Certo, l'elenco, magari in elenco non so nemmeno se ci siamo più, non so nemmeno se esista più l'elenco telefonico, le pagine bianche, ma le portano più. No, a me non mi è più arrivato qua, prima già le portavano. Sai cos'è? Allora, un saccaccio di gente si è tolta dall'elenco, noi abbiamo delle pagine bianche, però sono di qualche anno fa, no? Però la maggior parte delle persone si sono tutte tolte dall'elenco, perché probabilmente o hanno tolto il fisso e hanno tenuto un cellulare a casa e basta. Di solito quello lo fa chi non ha la linea internet, chi non ha DSL, chi non ha fibra ottica, cioè a chi non gliene frega niente, si usa solo il cellulare e boh, il cellulare poi c'ha la sua scheda, capito? E infatti non c'è motivo da avere il telefono fisso se uno ha il cellulare. No, già c'è altro che, noi abbiamo la fibra ottica, quella full, proprio fibra ottica che ti arriva fino dentro casa, non è quel doppino rame, ed è quella da un gigabit per secondo, che poi praticamente ce l'hanno fatta quasi d'ufficio perché noi avevamo la vecchia DSL e a quanto ho capito le stavano dismettendo, capito? A parte che con la DSL pagavamo molto di più, adesso paghiamo tipo 26 euro al mese, una cosa del genere, devo controllare. Però c'hai i giga ultra illimitati, cioè puoi scaricare l'impossibile, non hai problemi, capito? Come il cellulare invece che c'hai i giga, per quanti siano tanti, prima o poi arrivi al limite, no? Invece lì no, lì. Anzi, dovrei provare, per esempio, con questa linea, se Skype è più stabile. E col computer Windows, no, controllare, provare a fare una chiamata Skype, un giorno che abbiamo tempo da perdere, la proviamo, per vedere se non è scattosa, se è bella, capito, fluida, ecco. Ma no, penso di sì. Io ho il doppino ancora, lo chiamano fibra ma è fasulla. E io avevo chiesto, ho detto, ma voi mettete la fibra fino a fuori e poi da fuori fino a dentro casa col doppino in rame o è tutta fibra ottica? Dice no, entriamo in casa sua con la fibra ottica, poi vicino al computer c'è la scatolina. C'è una specie di scatolina di derivazione, no? Poi c'è attaccata una scatolina piccola con le luci che è il vero modem, quello è il vero modem, una scatolina bianca tipo pacchetto di sigarette, no? E poi dopo quella scatolina c'è il router vero e proprio della Fritzbox, una cosa del genere, sì, Fritzbox. che fa da wifi, cioè vabbè, il cavo anche di Ethernet, no, per collegarlo via cavo, c'è il wifi. Poi c'è un sacco di funzioni che non ho capito cosa siano, tipo quello di che li attacchi un hard disk e puoi praticamente diffondere i contenuti via wifi a tutti i computer di casa. Vabbè, non l'ho mai usato. Sì, ho capito. Una specie di cloud, privato. Sì, dovrebbe essere una cosa del genere. Per roba, ho capito che per roba multimediale soprattutto. Tipo i film, tu li attacchi un hard disk per i film, io potrei accedere dalla TV box Android, attingere da lì e guardarmi praticamente in streaming tramite il wifi il film. Devo riprovare che non ho interesse, io metto direttamente sull'hard disk attaccato a dove mi serve, capito? Soprattutto l'SSD che è leggero, è piatto, sembra un wafer. Ce l'ho anch'io qua. Molto belli. È molto più veloce rispetto all'hard disk esterno classico. Perché l'hard disk esterno mi pare mi trasferisce a 130 MB al secondo, no? E quell'altro invece va oltre i 300. E nota che è dei più lenti, e io ho comprato un SSD esterno lento perché gli altri costavano troppo. Ce ne sono che vanno a anche un gigabit per secondo, mi pare, credo di aver letto. Gigabit, allora i bit si usano per la connessione diretta, quindi quando uno dice un gigabit per secondo è solo per la rete, invece per le cose fisiche dei file in gigabyte credo si misuri, ma non sono sicuro. Sì, è così. Infatti Natale, io non capivo, nel 2000 ero un pirla, no? Che non aveva mai usato un computer, mai toccato. E dicevo, ma scusate, andavo a scaricare da, sai, le repository dei sistemi operativi Linux, quella roba lì, no? E andava lento, tipo 7 megabyte al secondo, no? Poi ti spiego. Sì, megabyte, 7 megabyte al secondo. No, kilobyte, scusami Natali, kilobyte, ci siamo. Sì, a scaricare una cosa ci voleva un giorno. A parte quello, ho detto, ma se il modem è il 56, nota lo sbaglio mio, ho detto, ma se il modem è 56k, ho detto, starà per 56 kilobyte al secondo, perché me lo scarica poi a 7 kilobyte? E invece no, perché 56k erano 56 kilobit al secondo, che diviso 8, e fate il conto, 7 per 8, 56, e i conti tornano. Infatti la velocità in kilobyte, non kilobit, in kilobyte era 7 kilobyte al secondo, e io sbagliavo kilobit con kilobyte perché non ero pratico. Io lo so. E poi a dirla tutta, anche con le fibre ottiche non te ne fai niente di un gigabit per secondo, niente, perché tanto poi vai da un sito per scaricarti un sistema operativo e poi ti va a pochi megabyte al secondo, perché cioè il sito serve migliaia, se non milioni di persone, capito? Non è che puoi scaricare un gigabit per secondo, te lo sogni? Sì, vabbè, ma puoi scaricare velocissimamente un film in poco tempo. Prima non te lo potevi permettere. Ma dipende dalla fonte, Natalì. Perché se la fonte c'ha centinaia o migliaia di richieste, tutti collegati a quel sito, a quella fonte, diciamo, se si parla di torrent per esempio, col cavolo che lo scarichi a anche quando navighi tra le pagine internet, no, certe pagine tardano un po' a aprirsi perché il sito è preso d'assalto, giustamente, e deve servire un po' tutti, diciamo, dai. Sì, perché sono i server lenti. Sì, perché ogni server ci sono collegate una marea di persone, capito? Fossi da solo, per dire, che attingi a quel server, posso capire. e mi ricordo che mi facevo i CD masterizzati con i sistemi operativi Linux, da usare però al volo, senza installazione. Ce li facevi il boot da CD, te lo caricava nella RAM e usavi il sistema operativo solo sulla RAM, capito? Senza installare nulla. E quindi avevo provato Ubuntu, avevo provato altre versioni di Linux, poi addirittura c'era una specie di Knoppix, o qual era? No, Windows era una specie di misto, sembrava una specie di Linux con l'interfaccia di Windows, una mezza schifezza. E tanti ce l'erano di Linux, un bel di distribuzioni, Debian, SUSE mi pare, e tanti altri nomi che non mi ricordo nemmeno. Cali. E comunque Natalio, nonostante l'interfaccia grafica, io non mi ci trovavo. Quando dovevi collegare anche una periferica, non so, mi trovavo di fronte a questi termini che io non sapevo usare, ci volevano i privilegi di amministratore, io non ero pratico di Linux e poi ho lasciato perdere. E invece a me piaceva Linux. E lì avrei dovuto approfondire e imparare, però imparare, cioè, avevo già 30 anni, non a imparare non ce l'avrei fatta, dai. Porca miseria, la memoria è da, avrei dovuto tenere la mente allenata, invece non l'ho fatto. Infatti, vedi che ora sono le 2. Dai che ci siamo quasi, alle 2:30 controlli la glicemia e poi ti fai un bel pisolino. Infatti, poi verso le 5 mi alzo. Mi controllo quel 3900 da una sorta. Sì, speriamo che sia una fesseria. Che sia una fesseria. Cavolo, perché sarebbe un peccato. Oh, niente di irreparabile, quelli, ricordati, i componenti sono classici, anche belli grandi, facili da disaldare, da sostituire. Sì, lo so. Questa gattina è in estasi. In estasi. Oh, che bella gattina, mamma mia. Qui, dimmi se sente la voce di mamma. Aspetta. Si sente? Sì signore, ma insomma si sente. Sì signore. Niente, le raffiche di vento qua sento, caspita, deve essere ventosa oggi, cacchio. Ha girato, devo dire, un tempo, perché già si vedeva da stamattina che la giornata non era tanto per la quale, speriamo che non evada l'aria, che domani faccia sole. Eia, e domani cosa devo fare? Forse devo andare dal medico per mamma, devo preordinare l'antidolorifico, basta, vabbè, al limite gioco un Superenalotto, poi boh, vediamo, forse devo comprare carta igienica, niente di che, comunque là, niente di importante. Gioca, speriamo che vinci, almeno mi dai qualcosa. E allora, qui è la seconda volta che mi capita. Mi arriva un po' a tarda serata, no? Questo messaggio sull'applicazione di coso, Superenalotto, dice: abbiamo una piacevole sorpresa per te. E io, va, fatta Emi, fatta, sono milionario sono. Poi vado ad aprire l'applicazione. Complimenti, hai vinto 5 euro. Fila del culo. E se no, quelli che ti dicono che hai vinto il telefono, questo e quell'altro, e da voi buoni a punire di nano, ti mandano in nuda. No, no, per carità, quei messaggi strani, hai vinto l'automobile, hai vinto qua, hai vinto il concorso, solo che io concorsi non ne ho fatto e quindi so che sono solo imbrogli. Infatti avevo detto a Ivan, non cliccare mai lì, perché lui all'inizio non era pratico, lui come vedeva, hai vinto questo, lui come vedeva vinto, la parola vinto, gratis, impazziva, ho detto non cliccare mai perché sono truffe. Il truffe solo, sono. Ho detto, se tu non hai partecipato a qualche concorso volontariamente, non puoi aver vinto nulla, è chiaro, no? quei messaggi che si immagini, hai vinto 1.000 miliardi di euro, sì sì, clicca qui e metti i tuoi dati. E di cudini all'esca, mi dice a bocchi. Comunque si stanno moltiplicando queste truffe online oppure telefoniche, lo sai, tipo chiamano una signora, signora c'è stato un incidente qua e là, suo figlio è coinvolto e rischia non so una penale, dice che dovrebbe pagare non so quale cifra per evitare la sanzione o non so che cosa o ripercussioni più gravi, e certe signore magari che non ragionano a mente lucida si fanno tipo impressionare e mandano soldi a questi delinquenti qua, capito? Tutta roba del genere, truffa in questo stile qua, oppure in questo stile ma online, richieste di avvocati, di risarcimenti per presunti incidenti, tutte imbrogli sono, per carità, guarda. Poi, adesso non per dire, lui dice è sempre venuto, no? 90% di questi truffatori di dove sono? Non indovinerai mai. Di dove sono? Di Napoli o dintorni, sempre napoletani sono, quasi sempre. Sì, vabbè, quelli si arrangiano, poveracci, truffando la gente, che non è possibile. Sì, il giorno che telefono a me a dire che mio figlio è coinvolto in un incidente, dico guardi, io sono sterile, però se ti trovo c'ho un affare lungo 30 centimetri, ti faccio nuovo. Il tronchetto della felicità. Vediamo quello. Scherzi. Venga a chiedere soldi a me, io figli non ne ho, che cazzo vuoi la vita? Devi aver fatto fare una figura di falta. Oppure bisogna dire, no, guardi, sa cos'è, siccome sono sott'occhio dalla finanza, non posso movimentare i soldi, però se vuole glieli metto in busta, glieli do di persona, venga a ritirarseli, e poi ci vai armato fino ai denti. No, si deve una femmina, vi rabbongo in mano subito. Dipende dalla femmina, ma di solito, ecco, a proposito di solito quelle femmine che fanno queste truffe, magari che si presentano anche di persona, sono anche di bell'aspetto, e lo fanno proprio per infinocchiare la persona, cioè vengono vestite bene, di bell'aspetto. Anche gli uomini così, no? Tutti belli incravattati, eppure sono tutti imbroglioni. Siamo solo io. Venga da me la signora di bell'aspetto, che la faccio nuova. Magari i soldi non ne prende, però già se ne va soddisfatta lo stesso. È soddisfatta o rimborsata? Ah, pure la garanzia, dai, soddisfatti o rimborsati, tipo cos'era, Euronova, cocchiera di Gerusalemme. Io sono sicuro che se ne va soddisfatta, e se no la rimborsiamo e ne diamo un'altra passata a convincirla a lei. Eppure sai quante persone ci cascano in queste truffe? Ma non so, perché vabbè, uno capisco che possa essere preso dal panico, ma a un certo punto se uno ha un figlio che lavora fuori, chiamalo dal telefono, chiedi se è vera questa cosa, non che il primo che ti chiama ti dà l'IBAN e tu gli versi i soldi, mi pare strano, vabbè. Sì, questi vecchietti prendono, già lo sanno loro a chi chiamare, mica chiama Matteo a me. Chiamano questi vecchietti, poveracci, che temono, che hanno figli magari, loro si informano su tutto e telefonano a queste persone. Se no, col cavolo che se telefonano a te ti infinocchiano, non ho capito. Guarda, secondo me tengono d'occhio le persone sensibili, le persone un po' deboli, fragili, quelle che ci cascano di più, e sono come dei predatori, capito? La vittima, la preda facile la riconoscono, è una cosa allucinante, guarda. E allora lì dentro Nisani ha con chi stanno parlando e tutto, questi truffatori, perché si informano, sanno se c'è soldi, se non hai, se vai migliori, tutto, e ti guardi il suo figlio così così così. si va a passare a maresciallo dei carabinieri, compreso. E lì quando li beccano è ancora più grave. Come aspetta? Usurpazione di titolo, no? Quando tu ti spacci per tipo carabiniere. Non è solo sostituzione, no, non è sostituzione, credo che sia proprio usurpazione di titolo. E quello te lo fanno pagare abbastanza caro, eh. È logico. Usurpazione di titolo, falso ideologico, di reati. E ogni tanto ne beccano qualcuno, ma magari stava pochi mesi in galera, seppure, e poi ricomincia da capo. Certi sono recidivi, guarda che c'era un truffatore ovviamente del Sud Italia, non per dire, ma che truffava vedendo HF che non esistevano, baracchini che non esistevano, e questo aveva anche un piccolo negozietto dove ti ordinava televisori, stereo e tutto, e poi tu non gli davi l'anticipo e poi roba non ne vedevi, capito? Non ne vedevi. E lo faceva anche online, tipo su eBay, su subito.it mi pare anche. Era un truffatore seriale. Guarda, l'avevano avvistato anche sul forum Roger K. Metteva gli annunci nell'usato e hanno detto: guardate che questo è il solito truffatore, se volete dice facciamo nome e cognome, tanto è ormai risaputo che è lui. Eppure, nonostante le denunce, nonostante il coso, questo continua a truffare perché sa che non gli fanno quasi nulla, magari si fa qualche mese di galera seppure, e poi è fuori e ricomincia da capo, più di prima e peggio di prima. Manco un giorno di galera fanno, che adesso li mettono agli arresti domiciliari e continuano a fare quello che stavano facendo, capito? Esatto, anche da domiciliari, basta che ci abbiano un computerino a fianco, anche uno smartphone, e continuano a fare le truffe anche ai domiciliari, anche se non le dovrebbero usare, a quanto capito, non so come funzioni, credo che non possano usare manco telefono, no, ai domiciliari, come funziona? Ma Cesare ce l'aveva il telefono, non poteva, aveva gli orari per uscire addirittura. Se tu vuoi usare un computer te ne vai a un internet point e truffi lo stesso negli orari che puoi uscire, capito? Così non viene nessuno a controllarti in quegli orari che tu hai il permesso. Però lo sai che all'internet point dovevi dare la carta d'identità, dovevi dare un documento. Prima magari erano liberi, però poi, proprio perché venivano usati per fare reati, mi pare erano obbligati a chiederti la carta d'identità, e quindi si risaliva comunque dall'IP all'internet point, e poi dall'internet point sapevano che a quell'ora tu avevi affittato quel terminale, capito? Ci avevano la carta d'identità e quindi non si scappa. Eh sì, a chi napoletano non sai a fare una carta d'identità falsa. Vabbè, sì, volendo la possono fare falsa, lì poi sarebbero reati su reati, e in caso che lo sgamino comunque si paga anche quello, e glielo fanno pagare il salato. Ma cosa sgamano? Che già a sgamarti ci vuole un bel. Poi devi provare che veramente eri tu che facevi queste truffe, capito? Non le fai nemmeno nuda i taglienti. Già, se ti fidi non fanno niente alla gente che fa omicidi. Sai perché? Ma infatti certe volte magari ti danno 15 anni o 20 anni, poi cominci, buona condotta, e gli anni si dimezzano. Poi tra permessi, indulti, indultini, che ne so, sconti di pena, sovraffollamento, diventano la metà della metà agli anni, capito? Cioè da 10 ne fai, da 20 ne fai 10, poi diventano 5, poi sovraffollamento, balle varie, praticamente ti fai 2-3 annette e sei già fuori, per omicidio, figurati, nulla mai detto. Figurati, ecco perché in Italia è il paese dei balocchi, fallo in America che danno gli anni di galera tipo le caramelle, 60 anni, capito? Adesso, vabbè, noi siamo abituati un po', come dire, il telefono, aspetta. A Bisese? Sì, Marco. Ma aveva chiamato mamma per sapere cosa pranziamo. Mi fa, oggi mi faccio quelle gnocchi, sono degli gnocconi ai funghi, e li faccio con la panna e un po' di parmigiano sopra, se no si copre tutto il sapore, se metto il sugo rosso, li copre tutto il sapore interno. Sì, infatti ti conviene farli con la panna. E poi come secondo, boh, vediamo, che poi ci saziamo col primo di solito. Anche io ho lo stomaco piccolo, mamma pure, alla fine. Dove eravamo rimasti, Natalì? Di cosa stiamo parlando? Di notti domiciliari, truffe? Di? Sì, di truffe, che non gli fanno mai niente a questa gente, cosa li fanno? Bisogna, pure condannandoli, cosa li fate? Ah, stavamo parlando, cioè noi siamo abbastanza, anche per la stradale, no? Se fai un'infrazione stradale, vabbè, c'è la sanzione, però in America veramente è quasi eccessivo, cioè per una manovra sbagliata ti arrestano, cioè, ti mettono le manette e ti portano dentro e vai davanti al giudice. Cioè noi siamo un po' mollacchioni da una parte, ma lì grazie a Dio sono degli esaltati, sono, come dire, forcaioli in America. Ma hanno anche ragione, lì non è come qua che tu, cazzo, per pagare una contravvenzione se ne paghi pure, lì alla prima infrazione ti arriva un avviso, no, quando ti mettono una contravvenzione. Se è la seconda volta, se tu non la paghi quella contravvenzione, viene il poliziotto con le manette, ti arresta. Mamma mia, il gatto ha fatto la pupù. Ha fatto la pupù il gatto, c'è un odore terrificante, adesso mi metto la maschera antigas. Certo che il gatto è puzzinoso, mamma mia, sennò quando fa la pipì, un odore fa, cavolo. Beh, oddio, loro sono femmine e sono sterilizzate, la pipì non fa questo odore sul momento, non fa odore, però la pupù, puffa, l'anima, che cavolo, adesso devo aprire tutto, che mi viene il vomito, mi viene. Dicevo, non c'è una via di mezzo, noi siamo troppo mollacchioni, in America sono quasi fanatici. Ah, per esempio, un amico è stato in America due volte, no? Dalle parti tipo il Tennessee, sì, no, una volta in Florida e una volta in Tennessee. E dalle parti del Tennessee che ci sono tipo, credo, gli sceriffi di contea, ma devi vedere ogni pezzo d'uomo, non grasso, è proprio un bestione con il cappello tipo cowboy, no? E lì gliel'hanno detto durante i controlli, come ha detto Gianfranco ieri. Se ti fermano, stai in macchina, non fare niente che lui non ti dica, devi tenere le mani sul volante in vista, non devi fare mosse brusche, se ti dice prenda il libretto dal cassettino, allora tu piano apri e lo prendi, facendo vedere cosa stai facendo, però non devi scendere dalla macchina come fanno certi qua esagitati, no, lì devi fare quello che ti dicono, perché se loro hanno anche il sentore che tu possa essere una minaccia, lì ti sparano subito. È quello, io lo so dal texano, no? Claudio il texano, non so se sai l'esistenza di questo camionista che era un agente della stradale qua in Italia, poi è andato a vivere in America questo qui, e l'ha detto, lì devi obbedire all'ordine del poliziotto, non devi fare né più e nemmeno quello che ti dice lui, perché sennò lì ti sparano. Sì, Claudio il texano, ogni tanto guardavo qualche video di lui, non tutti, perché sto sempre facendo video, e lui era nella stradale, quanto ho capito, credo che avesse denunciato colleghi corrotti. Capito, c'era qualcosa che non andava e lui praticamente ha detto cosa non andava, poi lì ovviamente ti fanno muro contro di te, cioè tu stai agendo nella legalità, no? Però anche gli altri ti girano le spalle, anche quelli che non c'entrano ti girano le spalle e ti pigliano come spia, però quella è una mentalità un po' da delinquenti, come dire, no? È come quando fai lo sgarro alla mafia, che ti additano come spia, però siccome quelli sono poliziotti e dovrebbero agire nella legalità, D'altronde, scusa, tu quando fai il giuramento in polizia giuri fedeltà allo Stato italiano, non è che devi giurare fedeltà a dei colleghi corrotti o che fanno cose illegali. E vabbè, insomma, da lì, insomma, tra... lo stavano telefonicamente tormentando, sai, te la faremo pagare, roba del genere, è dovuto andare in America, ha voluto fare Don Chisciotte e ci ha rimesso, è andato in America, però ha detto anche lì non è tutto rose e fiori, in America praticamente ti devi ammazzare di lavoro e non ti devi mai ammalare perché sennò perdi tu, rischi di perdere tutto, e quindi ogni tanto lui dice che il sogno americano non è poi così come dicono tutti. Certo, se sei imprenditore che luci dalle poltrone col sedere è un conto, ma quando fai il camionista che sei in strada, che ti devi fare un mazzo così, ti devi fare un culo così e stare ore e ore a fare le consegne, giorni, anche poi lì gli spazi sono enormi, tieni bassa la gana, capito? Dici, ma chi me l'ha fatto fare? Capito? Scusi, con quei camion americani che hanno il fuller diventi matto, perché non è sincronizzato. Se non sai usare il fuller non puoi manco guidare lì, perché lì dici no fuller, no track, capito? Sennò loro dicono, se non hai il cambio fuller non è un camion, figura di un pogume. Quelli, cazzo, devi usare il cambio senza la frizione praticamente. Ah, così è un cambio non sincronizzato. Lui aveva fatto un video sul cambio fuller, però io non l'ho seguito tanto. Insomma, lì ha fatto capire che certe volte proprio non ti devi ammalare, perché è un casino lì. C'è l'America, devi lavorare a crepatura e sei sempre sul filo del rasoio, praticamente, se sei un uomo normale, diciamo, vabbè, se sei un riccone te ne futti, ma se sei un uomo normale sei sempre sul filo del rasoio. Appunto, spesso ha queste crisi, no? Diciamo, e durante il video si chiede se ha fatto bene, se è il caso di tornare in Italia, eccetera, ha detto no, non tornare, cosa torni a fare in Italia? A fare la fame, per carità di Dio, qui ti danno un decimo di quello che guadagni lì, magari riesci a campare pure con un decimo, in Italia penso anche con poco, però fare il camionista per viaggi lunghi, cioè, come diceva in quel film Mario Brega, dice, questo non è un mestiere, è una galera. Perché esci di notte e torni di notte, capito? Eia, sì, praticamente, ma lì certe volte ti devi fare migliaia di chilometri, hai visto quelle strade enormi, poi hanno dei camion giganteschi, con non so quanta roba sopra, e insomma, un po' impegnativo. Lui vorrebbe addirittura che la figlia piccola crescesse in Italia, poi ha detto che lì praticamente non riusciva a integrarsi con la popolazione locale, cioè non sono molto espansivi, forse come sono addirittura gli italiani, no? Anche soprattutto quelli del sud, no? Cioè sono più cordiali, lì sono un po' più freddi, un po' per i cavoli loro, sempre diffidenti con lo straniero, con chi non è, capito, nativo americano. E insomma, poi gli stati del Texas, lui era nella zona Texas, mi pare, no? Delicatemi con le armi, lì davvero, e lì c'hai proprio gli sceriffi, quelli, insomma, proprio gli sceriffi, adesso non mi ricordo bene, dipende, le contee non so nemmeno in che stato siano, se siano anche all'interno del Texas, capito, vabbè. Sì, sono contee, sono, c'è lo sceriffo, il vice sceriffo, capito. E poi se trovi uno sceriffo di quelli un po' corrottimi, come quello di Convoi, te lo ricordi Convoi? Dove usavano i baracchini molto, anatra di gomma, chiodo arrugginito, che bello quel film. se trovi lo sceriffo corrotto, tipo quello che ti estorce i soldi, capito, perché magari hai fatto una piccola infrazione per eccesso di velocità, dice, capito, ti paghi il pizzo e non ti fa la multa o la sospensione della patente. Io non so, ti segnano la patente, devi, per trovare lavoro non devi avere la patente immacolata. Allora, sai cosa è successo a Claudio il Texano? Al di fuori del lavoro, lui aveva questa Fiat 500, credo quella grande. Come si chiama la 500 grande? L, come si chiama? Vabbè, lo so, tanto l'ho seguito, va. Quella lì, praticamente una volta in questi rettilinei che hanno grandi loro, no? Ha fatto una bella tirata con la 500, la voleva un po' tirare, lanciare, no? Fa un leggero dosso e chi c'era dietro il dosso? Lo sceriffo, o comunque un poliziotto della... o stradale o quello che è, insomma, non so se facciano tutto lì i sceriffi. E quindi l'ha fermato per l'eccesso di velocità e gli ha rilasciato un warning, come dire, un avviso, diciamo, da un avviso, che credo che il warning lì ha detto che non scade mai, a detta sua, cioè non è che scade una settimana, un anno, lì vale sempre. Quindi vuol dire che se lo dovesse beccare un'altra volta correndo, è fatta, o ti ritirano la patente o ti mettono in galera, boh. Sì, è un casino, è un avvertimento il warning. Sì, praticamente lo chiama un warning, però come dire, un richiamo, un avvertimento, e dice che non scade. E quindi se ti beccano un'altra volta, presumo nella stessa zona, no, lo stesso sceriffo essere, correndo, guai, per carità, dice, qua bisogna stare molto ma molto attenti. Infatti, puoi andare a Catania, non so quante miglia col camion, qui a 80 km, non di più, in chi dà, abisso mio, puoi andare legalmente a 150 km, tranquillo. Poi si era lamentato che lui aveva affittato una delle case, credo la prima che ha avuto, l'aveva affittata, però gli era capitata gente di cacca, gente brutta, tipo white trash a quel livello lì, e gli avevano fatto un bel di danno, gli avevano mezzo sfasciato la casa, rovinato pavimenti o muri o anche l'impianto igienico, sai, il bagno, insomma, hanno fatto un bel di danno. E non l'ho più seguito io da chissà quanto tempo. E c'erano tre brani, vero? Che lui ci aveva comprato la casa a Tampa, ci aveva comprato, e quella di Follett l'aveva affittata. Follett, bravo, Follett l'aveva affittata, e purtroppo gli erano capitati inquilini di cacca, come dire, sai come li chiamano quel tipo di persone, white trash, no? E dice, l'aveva trovata lurida, Pucci, guarda. Figurati. E adesso lui sta a Follett, perché la casa di Tampa ce l'ha venduta. L'aveva anche venduta ella. Tampa è in Florida. E quell'amico era andato proprio a Tampa. A Tampa era andato. È vero. E poi in Tennessee sai perché era andato a vedere i cosi dalla Jack Daniels, Lynchburg mi pare che sia, proprio dove fanno il Jack Daniels, a vedere le botti, gli impianti, cioè, bello, una bella esperienza comunque, però qui davvero bisogna stare attenti, non devi sgarrare, anche quando sei in macchina, non è che puoi guardare che quando sei sulla linea d'arresto, se vai a fissare gente che è in macchina, no? Lì se trovi lo scoppiato dice cosa si abba i denti, non è come qua, no, ti dice due parole e lì si tirano fuori la pistola, che ne so, bisogna stare molto attenti là. Poi una volta doveva partire, non mi ricordo dove doveva andare, e non si è portato la pistola perché il portadarma suo non valeva in ogni stato, non è che vale in tutti gli stati, capito? Quindi tu non sei in regola se passi da uno stato all'altro, capito? È un po' delicato lì. No, perché non si sa mai cosa ti... Può succedere anche che magari la stai trasportando, magari ti, in certi stati ti dicono che stai importando illegalmente un'arma, che ne so io, e bisogna stare attenti sempre. Lì sono 50 stati, caspita, sono tanti, se uno dice gli Stati Uniti sono tutti uguali, e no, ci sono 50 stati, ognuno con delle varianti, diciamo, sono delle varianti, delle proprie leggi che possono essere diverse. Hai visto questa storia della pillola abortiva? Se sei in uno stato non puoi abortire. Adesso un po' si è calmata la situazione, cioè stanno tornando indietro, grazie a Dio che c'era l'aborto per correggere i propri sbagli, no? Oppure una vittima di stupro, e invece ci sono questi fissati tutti sempre un po' o cattolici o non so di che tipo, che pretendono che una, anche se è stata stuprata, debba avere il figlio, frutto dello stupro. Ma non esistono, ognuno deve decidere del proprio corpo, ci mancherebbe. Ma lì sono puritani o sono diversi da noi, capito? Cioè, è strano, mi è un po' un controsenso che dopo tanti anni tornino indietro. Infatti gli americani, cioè, un po' strano lì, tutto, ci sono dei contrasti, capito, delle cose che, boh, vabbè, ti lasciano un po' basito. Beh Marco, io ti lascio a fare quello che devi fare, e io intanto mi sono fatto l'insulina, la glicemia mi sono misurata e adesso mi faccio un riposino, perché alle 5 me ne devo alzare, che devo misurare questo cazzo di 3009 e devo guardare un po' cosa è successo. Eia, io adesso piano piano mi preparo la roba della cucina, tanto quando far bollire l'acqua ci passa un quarto d'ora, eccetera. Ok, ciao Natali, buon, fatti un riposino, anche per la schiena, quello che è, insomma, ci sentiamo quando capita. Ciao Natali, saluti in casa. Altrettanto, grazie per la compagnia, ciao.